che respiri attraverso me. Eia! È una cosa senza l'acqua sollare, io lo so, mamma mia, è brutta. Se ti ce l'hai, è veramente brutta cosa brutta. Perché non fanno male cosa se la riproduce il corpo nostro stesso automatico. Deve sempre mettere un altro capito. Già lo faranno qualche giorno, qualche anno, questo giorno, penso fa qualche anno, sistemeranno questa cosa qua, troveranno qualche cosa e si riprodurrà solo in automatico. Antonio, è un anno so che intendo, io so pure a 40 anni più, ha detto questa cosa, dice che in America che avevano già studiato lì a fare un intervento e veniva normale questione, hanno dal bunker, hanno che veniva male, però non hanno detto più nulla con la notte, insomma già ne so qualche cosa io, Antonio. Grazie a Dio del resto, come salute, mi è misurato tutto tranquillo no? E soltanto sono andato per il capito? Mi si attacca la tribuletta, mi si attacca il capacchietta e cosa di me. Si chiama la mia figliola, mi ha trovato un esercizio a 50, bevo una buona mangia a poco. E beh, mi ha mangiato un pezzo di panettone, ripeto, prima da lì è una data della casa. Sì, così, vabbè, la mattina anche la pressione che si abbassa per questo, quello che si alzi, la pressione rimane bassa, poi piano piano, una volta che si mette in movimento, si mette tutto a posto. E a me la mattina alle 5 sono andati a un altro che mi sa, non ho fatto proprio niente. L'avevo dovuto fare verso le 8, è vero, è detto, però sera, andare, via che la chiamata di Latino, vengo subito. Ehi, si è male. No, sì, mi è aumentata un poco, però non assai, capito? Infatti bisogna un poco controllato, capito? Non è che ho abusato, per cui... su per giù, sì, è alta, però non è una cosa eccessiva, capito? Allora, insomma, andiamo per la via, ha 127, e cosa vuoi di più? No, ho 127 è normale, io mi dico che è tanto che è normalissimo. Ma ecco perché mi si è passato, è fatto colazione normale, come si è detto di mangiare. Noi gli abbiamo fatto questi giorni di festa, che gli abbiamo fatto a Capofitto. Ma già regolarmente con la notte di ha ragione con l'amore Antonio. Sì, si è lontano Antonio, non vedi subito a dita. E così è male. Come sono andate, come sono andate? E ci dico anche un po' di raucire perciò, anche con un paio di mani a disfidare. Come ci sono andate le quince, Mario? Sto bene. Alle mani era la servitato mia nipote a pranzo, che era totalmente buona alle mani. Però male così non andavo nel luogo, tranquillo, pacifico, se no è un macello, Mario. Boh, non si rimprende più nulla. Naturalmente quando sono queste cose, carichi non fa barzuglia. Ho inventato cose dell'altro, quello che non può... vuoi, invitano loro, sempre più di uno in famiglia, sempre questi festi del genere può capitare. È interessante che si sia accorto. Ieri mattina, porca la miseria, ha incaccato un paio di voti importanti, mi ha segnalato la numerazione, ho chiamato, ma negativo. E anche una. Insomma, prima il 9, 9 e mezzo, penso che sciola. Oh, ma se può darci che vuole il bacco qualche cosa, io vuole un numero a me. Oh, può darci pure, Mario, ma no, non ti ho sentito, se ti avrei sentito sarei entrato. Ma ci mancherebbe altro, ma... non so, forse ho dato qualche cosa importante così, magari pulendo pure da posto. Se stato sentito da via chiamato Mario. Forse non avevo un chitarra, perché un chitarra non ti vedo, Vedo solo la portante e basta, Mario. Aspetta, con questo ti sento benissimo. No, ma nulla, no. Ma voi dire, se tu non ti sei messo, ma nulla. Non ti sei messo, da voi ha subito una macchina rovina, da cui la mia ti è diventato un resto migliore, e così che... Tieni tutto un altro appartamento, vedi, no? Non era a casa, sei stato a casa perché ce l'avevamo sentito. Ah, ma mamma la vita lì, chi si vede da noi, per gli improvi, cose là, che non sono stati importanti dirci, Mario. È perché stavano facendo le prove, che forse erano niente. Boh, non lo so. Vabbè, è sempre citato, mi pare che era una ma un quarto quando si invece tra i monti. Così che è l'ultimo mandato in casa, era il Cuscelli, e il pattolino alla parte dall'altra. E stavo ascoltando loro che stavano facendo le prove, però un bel poco lì, capito? Però era il Cuscelli, capito? Questo è molto importante, mi senti mentre atteso direttamente con frequenza office, no? E allora io volevo, sono andato con più importanti, no, mi non metto più Mario. Ehi, bene, se volavo più Mario, se non avevi inteso, già entrato, non c'è nessun problema, a carico. E voi, ve l'avete passato a me, no? Ehi! Mario, quindi magari io, cioè, per me è stato più bei rompi, però sa, bisogna disattare ogni tanto Bacchisi, noi che ci sono i mucchisi, perché non c'è mai non vedi e se non arrivi non fai niente, che allora bisogna andare a partecipare, ma che giusto che sia così, almeno una volta all'anno bisogna evadere o no Mario? Una volta all'anno, una volta all'anno, cose che sempre in famiglia hanno bisogno di fare, in pace, in armonia e tranquilli, a carico. Oh, Iaia, è così, ma la previsione del tempo non è meglio, fa la mezz'ora, lavora lì, torna più vivo. Fa tutta la camara di un supervisione del tempo, fa tutta la miseria anche di chi sa che da che in treni avevo questo tempo così. Magari siamo fortunati perché la temperatura da 6 gradi è stata 17-19 gradi e così che il freddo che viene la racchetta passata non ferma più male. Sì, il freddo non è freddo Mario, freddo per un po' di umiltà, ma freddo non è freddo, cazzotti per un carico non ci vuole essere. Mario, è più su, l'inverno deve fare, leva l'inverno, la faccia sempre alta, che c'hanno le fette, altri anni passati si è fatto respirare leva, altri che c'hanno non si può lamentare, hanno le fette, per cui, da senti leva, poi quando fanno così, lo fanno all'anno, tutto andare, ma quando fanno il brutto spazio d'anno, allora più vicino è fette. Ma non si è così come c'è per i nuovi Mario, i nuovi brutti non un tempo e non è freddo, ecco. No, ho fatto il suo freddo la vita passata e boh, ma come te pioggia, come te coso, voglio andare avanti, se abbia continuato a farlo più per questi, aveva fatto bene, anche sapevo come noi facciamo l'autunno, l'estate, e così che lei va bene. Anche la vai come cammini, la vuoi fra poco sarà a piattare, a fare, a rifare. A proposito, già era un mese del pentino a Mario Manche e stamani avevo fatto una bella chiacchierata. Oh, ebbene, infatti da un bel, e da un bel non ci ho fatto intendere. E evidentemente impegnato e... prima è davvero un piacere, per cui evidentemente qui l'unica voce è per cui è seria. Ed è entrato. Va benissimo Mario. Va benissimo, secondo me che non lo vengo e non lo intendo. Capito? Non ha già tiene, ripeto, il bucato, ho giocato un po' con d'altro, la burma ci fa traduce, ha già tisatura. Era Tanino si è parato e Barchetto si dà a passeggiare, a Tonello è andata a pigliarsi una bionda, perché gli piace le bionda, è la Mazzano Pizzo. E ognuno si è riuscito a consigliare. Dai, cari fa, gli ha sono fatti maggiore vaccinati, gli ha sono ragazzi bravi. Noi come si è Antonello, mi si gira a una ganna abbracciata. Una ganna, non vedo la ganna, un attimo Mario. Mario, eh. come errare, come stai sempre lo stesso, Mario? Però hanno caricato le stazioni. E a chi stazione era più la tua via? Sì, dove quel geometro che era a 27.50.9. Ma lo frequenzimetro, non lo frequenzometro, lo frequenzimetro. Sì, lo frequenzimetro. Ah. Sì, ok. Vabbè, ma lei dai libero con l'ufficio a lungo, Ma che i numeri su lì, per cui la frequenza della segna è l'ufficio a lungo. Una voce che arriva alla frequenza, per questo dici bene. Venga, ma io mi accetto, ma mettito. Ho preso, se siete compiutati. Ehi, adesso vi voglio, ma... Beh, sento compiutato, ma già preso la stufa. Ah, ma se non la radio, ma è la radio, è appunto una cosa, l'altra. D'accordo.